l'una di dicembre. Sul porto di stasera, tra le navi grigie, tra le navi da sparita, con le mani assodate, l'una di dicembre, e i sogni di Maria, un cielo di scuola, un po' di tranquillità, almeno malinconia. La divisa che sta in larga e Gianni non può dormire. 18 anni per 3 anni di cantiere e 1 di guerra. Una penna che non scrive, parole che non sa dire. Forse sarebbe normale con gli occhi di Maria, certo sarebbe l'amore. Luna, luna di dicembre, luna, luna, dove va? Luna, luna, un'altra notte tu vedrai. Luna, questa notte dormirai. Che sogno è, che vita è. Quanta gente adesso pensa a te. E poi chissà, la realtà è un'altra luna di dicembre tornerà. Sul porto stasera, tra le navi grigie, tra le navi sbarrite, con le mani sudate, luna di dicembre. Sul porto stasera, i sogni vanno via, come le navi al mare, è l'ora di tornare. Tromba una caserma, sembra sempre una guerra, e anche se guerra non è, la paura rimane e ti passa la fame. Luna di dicembre e Gianni deve dormire, tutto sembra normale con Maria accanto, sarebbe un bel Natale. Luna, luna di dicembre, luna, luna, dove va? Luna, luna, un'altra notte tu vedrai. Luna, questa notte capirai che sogno è, che vita è. Questa gente adesso pensa in me. E poi chissà, la realtà è un'altra luna di dicembre tornerà.